Vuoi firmare i tuoi contratti e documenti in modo sicuro e da qualsiasi postazione? Usa la firma digitale di Aruba. È l'equivalente di una firma autografa di fronte ad un notaio. Ha quindi pieno valore legale. Attivala adesso su aruba.it. Effetto notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Fin qui abbiamo gestito l'epidemia con rigore, con coesione, con la partecipazione di tutti e il senso di responsabilità. Se dismettiamo questo senso di responsabilità, se dismettiamo questa disponibilità a fare qualche sacrificio in più in vista del bene comune, ovviamente andremo in difficoltà. Oggi lo ha detto il Presidente del Consiglio Conte fuori da Palazzo Chigi dopo il Consiglio dei Ministri, dopo l'incontro con le regioni in cui ha annunciato quello che si attendeva da tempo, appunto da diversi giorni, cioè la proroga dello stato di emergenza sino al prossimo 31 gennaio e poi la proroga anche del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che era già in vigore, che viene prorogato sino al 15 ottobre con le misure contenute che ripasseremo durante la sintesi della giornata, ma anche poi con il portavoce dell'Associazione Nazionale Funzionari di Polizia e poi che contiene per il momento questa novità che è l'obbligo, anche questo si attendeva, della mascherina anche all'aperto, e sarà obbligatoria quindi non solo nei luoghi chiusi ma anche all'aperto, a meno che non si sia in un bosco oppure in montagna isolati. Comunque poi andremo più nel dettaglio. Speranza, ministro della Salute, ha detto: oggi segniamo un cambio, non più ordinanze per allargare ma ordinanze che cominciano a dire attenzione perché la situazione è seria e delicata. Quindi approfondiremo tutto questo. Poi parleremo anche con il vicepresidente dell'Associazione dei Medici, della Federazione dei Medici di Famiglia, che ha annunciato che a breve, probabilmente anche a metà ottobre, negli studi dei medici di famiglia potranno già essere attuati i test rapidi per il Covid. Insomma, tante cose veramente interessanti che approfondiremo con gli ospiti, ma prima sintesi della giornata, e ancora prima vi ricordo come sempre per i vostri commenti pagina Facebook di Effetto Notte oppure il WhatsApp al 349-238-6666. L'andamento del Covid-19 in Italia, balzo dei contagi sopra i 3.000 casi in un solo giorno, i morti sono 31. Da domani obbligo di indossare le mascherine anche all'aperto, per i trasgressori multe da 400 a 1.000 euro. Conte dice: noi siamo coerenti per la tutela della salute e anche per preservare le attività produttive e l'economia. Lazio, i medici di famiglia annunciano test rapidi nei loro studi da metà ottobre. Il Covid nel mondo, l'Europa supera 6 milioni di casi confermati da coronavirus, quanto emerge da un conteggio dell'agenzia France Press. Intanto il virologo americano Fauci dice: senza misure necessarie si arriverà a 400.000 morti negli Stati Uniti. Maltempo, si contano i danni nel nord-ovest, alle regioni in arrivo 3,6 miliardi, pronti altri 3, assicura il ministro Costa e sottolinea: siamo dentro i cambiamenti climatici. Il Nobel per la chimica 2020 va alle due rivoluzionarie scienziate che hanno riscritto il DNA. Partiamo quindi dall'andamento del Covid in Italia e dalle misure decise dal Consiglio dei Ministri. Salgono i contagi, per la prima volta dopo quasi 6 mesi tornano a sfondare la soglia dei 3.000 casi in un solo giorno. Il bollettino quotidiano del Ministero della Salute conferma quello che anche oggi ha ribadito il Ministro Speranza, appunto ha detto: i dati dicono che il contagio cresce, è necessario alzare la soglia dell'attenzione. I numeri dicono infatti che il totale dei contagiati, che comprende attualmente i positivi, le vittime, i guariti e i dimessi, è arrivato a 333.940, con un incremento nelle ultime 24 ore di nuovi contagi che sono 3.678. È vero che questi nuovi casi sono stati individuati con 125.314 tamponi, record dall'inizio dell'emergenza, e oltre 25.000 in più rispetto a ieri, ma è altrettanto vero che un incremento di 1.000 casi in un solo giorno non si registrava dal periodo più buio dell'emergenza. Un dato quest'ultimo che trova conferma anche nel numero delle vittime, 31 nelle ultime 24 ore, che portano a un totale dall'inizio dell'emergenza di 36.061. E in questa giornata in cui i contagi appunto fanno registrare questo balzo, il governo vara le nuove regole per contenere la diffusione del coronavirus. Questa mattina c'è stato il Consiglio dei Ministri, in seguito l'incontro con le regioni per condividere le misure prese, misure che ha voluto illustrare e commentare in serata il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Abbiamo approvato un nuovo decreto legge elaborato, concepito per affrontare questa nuova fase, c'è una risalita della curva di contagio, di qui quindi la deliberazione di prorogare lo stato di emergenza al 31 gennaio dell'anno prossimo. Abbiamo inoltre introdotto una misura più rigorosa, le mascherine, d'ora in poi bisogna portarli con sé quando si esce di casa e indossarli. In ogni caso, a meno che non ci si trovi in una situazione di continuativo isolamento, ecco, faccio l'ipotesi, si vive in campagna, isolati, in quel caso si esce all'aperto, è ragionevole indossare la mascherina. Si vive in montagna isolati, in quel caso è ragionevole indossare la mascherina, ma per il resto la mascherina comunque va non solo portata, ma anche indossata. Ma poi ci torneremo, sentiamo però nel dettaglio cosa prevedono le nuove norme. Stato di emergenza per il Covid prorogato fino al 31 gennaio e mascherina obbligatoria anche all'aperto. Sono queste le novità più rilevanti decise dal Consiglio dei Ministri che ha approvato un decreto sulle norme anticontagio in scadenza. Il decreto ha anche prolungato fino al 15 ottobre l'ultimo DPCM sulle misure anti-Covid in vista di un nuovo provvedimento. Nel frattempo, il governo ha introdotto per decreto la nuova norma che impone l'uso della mascherina all'aperto se si è vicino a persone non conviventi. Obbligo non previsto quando si fa sport o attività motoria, esentati anche i bambini al di sotto dei 6 anni e persone con disabilità o patologie incompatibili con l'uso della mascherina. Restano in vigore le multe da 400 a 1000 euro per chi non rispetta le regole anticontagio. Le regioni inoltre non possono adottare norme più blande rispetto a quelle del governo, salvo specifiche eccezioni concordate con il Ministro della Salute. Ai presidenti regionali resta però la possibilità di adottare ordinanze più restrittive. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E Domenico Arcuri, commissario straordinario per l'emergenza, ha detto ieri eravamo il 18° paese per numero di contagiati, mentre il 21 marzo scorso eravamo il secondo al mondo. E poi ha parlato anche della situazione in Europa, con in Francia che ha registrato ieri 34.000 nuovi contagi, la Spagna 23.000, la Gran Bretagna 11.000, mentre l'Italia 2.677, cioè 15 volte meno che in Francia. Intanto i medici di famiglia del Lazio annunciano oggi che presto, probabilmente a metà ottobre, potranno eseguire tamponi rapidi nei loro studi ai pazienti. Ne parleremo nel corso di questa puntata, una notizia che è stata accolta con entusiasmo anche dal Ministro della Salute Speranza. A proposito di Europa, l'Europa supera 6 milioni di casi confermati di coronavirus, questo è quanto emerge da un conteggio dell'agenzia France Press, situazione ben peggiore nel resto d'Europa, quindi dicevamo rispetto all'Italia, contagi in leggero calo rispetto a ieri nel Regno Unito, ma parliamo comunque di oltre 14.000 nelle ultime 24 ore e la prima ministra scozzese Nicola Sturgeon ha annunciato la chiusura di pub, bar, ristoranti e caffè in tutta la Scozia centrale, tra cui Glasgow e Edimburgo, per 2 settimane a partire da venerdì. Quasi 19.000, scusate, i nuovi casi in un giorno in Francia, mentre Bruxelles chiude bar e caffè per un mese. Anche la Germania segna un nuovo record ad aprile, sfiorando la soglia dei 3.000 nuovi positivi. Altri paesi come Polonia, Repubblica Ceca assistono a ulteriori recrudescenze dell'epidemia, prendono corpo quindi nuove strette per limitare i contatti sociali e le occasioni più a rischio di contagio. E negli Stati Uniti, dopo il ritorno a casa di Trump, la speaker della Camera, presidente della Camera Nancy Pelosi, commenta: la Casa Bianca è uno dei posti più pericolosi del paese. Dopo il brevissimo ricovero in ospedale, Trump non è ancora al lavoro nello studio ovale, come era stato riferito da un suo consigliere, ma dalla Casa Bianca comunque twitta, ora di economia, ora contro i candidati democratici impegnati nella corsa alla presidenza. Definisce il rivale Biden un matto dal quoziente intellettivo molto basso e accusa la candidata vicepresidente Kamala Harris di essere molto più a sinistra del pazzo Bernie Sanders. Mancano poche ore al duello televisivo tra il vicepresidente in carica Mike Pence e la Harris. Questa volta, accanto al podio di ciascun candidato, ci saranno barriere in plexiglass. Pence le ha infine accettate, decisivo forse l'ennesimo caso di positività alla Casa Bianca, quello di Stephen Miller, consigliere di Trump, sposato con la portavoce di Mike Pence. La Casa Bianca, ha commentato caustica la speaker della Camera Nancy Pelosi, è uno dei posti più pericolosi nel paese ora. Novità infine arrivano nelle indagini sugli affari della famiglia del presidente. La Corte d'Appello federale di Manhattan ha stabilito infatti che le dichiarazioni fiscali di Trump dovranno essere consegnate alla Procura di New York. Alla Casa Bianca non resta ora che tornare a rivolgersi alla Corte Suprema. Laura Bettini, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Intanto, sempre per quanto riguarda gli Stati Uniti, Anthony Fauci, l'immunologo americano, dice: se non facciamo ciò che è necessario negli Stati Uniti in autunno e in inverno, potrebbero morire tra 300.000 e 400.000 persone per il Covid. E si hanno notizie di Patrick Zaki, che resterà in carcere per oltre 45 giorni, lo ha riferito la sua avvocata dopo l'udienza di oggi al Cairo. Lo studente egiziano dell'Università di Bologna, in carcere in Egitto da febbraio con l'accusa di propaganda sovversiva su Facebook. Ora occorre un impegno serio del governo italiano che riesca a fare uscire Patrick da questo incubo. Questa è l'esortazione di Riccardo Nuri, che è portavoce di Amnesty International Italia. Di nuovo in Italia, per quanto riguarda il maltempo, lo stato di emergenza afferisce al Dipartimento della Protezione Civile, ma posso dire che il direttore Borrelli questa settimana sarà nelle zone aggredite dall'evento climatico, ha detto il ministro dell'Ambiente Sergio Costa, ma è già arrivata, ha detto, e quindi vuol dire che si sta lavorando velocemente la richiesta di stato di emergenza da parte delle regioni. I viaggi di Radio 24. La passione per i motori corre ancora nei distretti dell'Emilia-Romagna, una passione antica collegata alle radici agricole della regione, ma che negli anni ha saputo crescere. In Toscana e Umbria, forti contrasti tra distretti, addirittura alcune crescite esponenziali durante il lockdown. Anche dopo la pandemia rimane un distretto industriale da 16 miliardi di euro, quello che corre tra Ferrari, Maserati, Ducati, Lamborghini, Dallara, Pagani, tutte in 150 chilometri in Emilia-Romagna. Una tradizione che continua anche dopo l'impatto del Covid, una rete che si è stretta con altri distretti del food come il lattiero caseario di Parma, biomedicale di Mirandola, che si è risollevato anche dopo il terremoto, mettendo a fattore comune competenze e innovazione con università e istituzioni locali per ripartire sempre. Come spiega Andrea Pontremoli, amministratore delegato di Dallara. È una rete che secondo me si è anche rafforzata durante il Covid, un insieme di fattori che ci ha portato anche a condividere molto di più le strategie dei capi filiera con le strutture di fornitura, sia in ambito formativo che in ambito produttivo. E in Toscana e Umbria, a dispetto di flessioni importanti del distretto Orafo di Arezzo, della nautica di Viareggio, della pelletteria e calzature di Firenze, come del tessile abbigliamento di Prato e il cashmere nel Perugino, ma anche del distretto dell'Olio Umbro, in alcuni settori addirittura la crescita è stata esponenziale proprio durante il Covid, come spiega Lorenzo Balli dell'azienda Everex, che tra 3D, test sierologici e vending ha visto crescere da lockdown nuovi modelli di business. Con l'avvento del Covid abbiamo fatto previsioni del meno 60%. I nostri clienti hanno messo a punto dei test per il Covid sierologici e quindi aprile e maggio abbiamo fatto i record di fatturato dell'azienda, uno di seguito all'altro, e c'è completamente raddoppiato il fatturato nel settore analisi diagnostiche. Anna Marino, Radio 24, Il Sole 24 Ore. A proposito di economia, la crisi mondiale innescata dal Covid-19 accentua le differenze tra ricchi e poveri. I miliardari nel mondo sono sempre di più e sempre più ricchi. Lo rivela il rapporto della banca svizzera UBS insieme a Pricewaterhouse, mentre la Banca Mondiale segnala che le persone molto povere che vivono con meno di $2 al giorno sono aumentate quest'anno al 9,4% della popolazione mondiale. Le persone con patrimonio superiore al miliardo di dollari sono 2.189, 31 in più, e il loro patrimonio ha toccato il record di 10.200 miliardi di dollari, crescendo del 27% in particolare tra aprile e maggio. I super ricchi, spiega il rapporto, hanno cavalcato la tempesta al ribasso, guadagnando poi con il rimbalzo azionario successivo. In crescita soprattutto gli imprenditori nei settori innovativi come Jeff Bezos ed Elon Musk e nel settore sanitario, farmaci e macchinari. I miliardari sono soprattutto negli Stati Uniti, ma la Cina balza al secondo posto, seguita da Germania, Russia e Francia. Anche in Italia la ricchezza dei miliardari, 4 in più in tutto 40, è aumentata nel corso di quest'anno del 31%. Alessandro Arona, Radio 24, Sole 24 Ore. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha oggi firmato, su proposta del Ministro dell'Interno, il decreto di conferimento della medaglia d'oro al valor civile alla memoria di Willy Monteiro Duarte, con la seguente motivazione. Il ragazzo, vi ricordate, ucciso a botte a Roma. Lo si legge in una nota del Quirinale: con eccezionale slancio altruistico e straordinaria determinazione, dando prova di spiccata sensibilità e di attenzione ai bisogni del prossimo, interveniva in difesa di un amico in difficoltà, cercando di favorirne la soluzione pacifica di un'accesa discussione. Per chiudere, il Nobel per la chimica 2020, che è stato assegnato a Emmanuelle Charpentier e Jennifer Doudna, due donne, due scienziate. Il riconoscimento ha premiato quest'anno le due ricercatrici che hanno messo a punto la tecnica che taglia e incolla il DNA e che permette di riscrivere il codice della vita, in sostanza delle forbici genetiche che consentono di modificare il DNA e che finora hanno aperto la via a molte terapie un tempo impossibili. Poi ne parleremo e cercheremo di capire meglio l'importanza di questa scoperta. 349-238-6666, numero per WhatsApp, mentre Facebook sta facendo i capricci. Il mio post l'ho scritto due volte e viene cancellato. Deve essere una qualche bizzarria ogni tanto di Facebook. A tra poco. Strade in diretta. Un saluto a tutti voi, di nuovo l'augurio di un buon mercoledì sera. Qualche disagio in Lombardia sulla 9, la Milano-Como, dove sono segnalati incolonnamenti per la presenza di un cantiere tra Chiasso e Como Monte Olimpino nei due sensi di marcia. Vi ricordiamo che resterà chiusa al traffico a causa di lavori fino alle 10 di domani mattina la 1, la Milano-Napoli, chiusura tra lo svincolo di Aglio e quello di Ronco Bilaccio in direzione Milano e tra lo svincolo di Pian del Voglio e quello di Aglio, questa volta in direzione di Napoli. Per il momento è tutto, per aggiornamenti ci risentiamo più tardi. Buon viaggio! Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Eccomi subito a voi, Roberta Giordano, dopo la sintesi della giornata. Adesso con gli ospiti cominciamo ad approfondire i diversi temi. C'è Silvia che scrive a proposito di quello di cui parleremo tra poco. Io la mascherina, dice, l'ho sempre usata, non ho nulla da rimproverarmi, ma tanta troppa gente, dice, ha passato l'estate senza mai proteggere se stessa e gli altri. È davvero una cosa molto grave, senza un divieto specifico, un obbligo, dice, lo spettro di una multa salata, le persone non sono in grado di far funzionare il cervello. Ma perché? Dice, effettivamente, diciamo che questo obbligo della mascherina, di cui parleremo tra pochissimo, è stato reso necessario proprio per il fatto che ci sono assembramenti, che tanti non capiscono l'importanza della distanza, del distanziamento, delle misure che conosciamo da mesi, e quindi questa cosa poi viene estesa a tutti quanti. Abbiamo approvato un nuovo decreto legge elaborato, concepito per affrontare questa nuova fase. C'è una risalita della curva di contagio, di qui quindi la deliberazione di prorogare lo stato di emergenza al 31 gennaio dell'anno prossimo. Ecco, si attendeva da giorni questa decisione e oggi il Consiglio dei Ministri, il Governo, ha quindi da una parte prorogato, come avete sentito ha detto il Presidente del Consiglio Conte, al 31 gennaio lo stato di emergenza, che in questi giorni il costituzionalista Alfonso Celotto da noi ha spiegato appunto che cos'è lo stato di emergenza, che prevede dei poteri speciali in situazioni straordinarie da parte del governo, quindi lo stato di emergenza per il Covid, dopo il via libera della Camera alla risoluzione della maggioranza. E poi oltre a questo ha approvato anche la proroga del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri già in vigore nei mesi scorsi, che sarebbe scaduto oggi, viene invece prorogato al 15 ottobre per il momento, con una novità che già parte praticamente da domani. Vedo che il Presidente Mattarella ha firmato il decreto legge Covid. Ecco, questa novità riguarda l'obbligo della mascherina anche all'aperto. Ne parliamo con Emilia Patta del Sole 24 Ore, esimia commentatrice. Ciao Emilia. Buonasera a tutti. Ciao Emilia. Allora, Conte, sentiamo, ha detto ulteriormente, naturalmente, in questo incontro con i giornalisti fuori da Palazzo Chigi, ha detto, sono dei sacrifici questi per il bene di tutti. Fin qui abbiamo gestito l'epidemia con rigore, con coesione, con la partecipazione di tutti e il senso di responsabilità. Se dismettiamo questo senso di responsabilità, se dismettiamo questa disponibilità a fare qualche sacrificio in più in vista del bene comune, ovviamente andremmo in difficoltà. E poi ha spiegato quali sono stati i criteri. Tutela della salute, primo posto, anche perché il nostro modello dimostra che se tuteliamo la salute poi preserviamo meglio il tessuto produttivo. E adesso voi vedete, gli indici economici sono in Italia comparativamente anche più buoni. Poi trasparenza sempre, dobbiamo parlarci sempre francamente, tutti i dati che abbiamo li pubblichiamo quotidianamente. E poi ci sono i criteri di adeguatezza e proporzionalità. Insomma, Emilia, se ne parlava da giorni. Conte oggi ha spiegato i criteri, ha spiegato appunto di queste proroghe, dicendo abbiamo provato questi decreti, queste delibere per affrontare una nuova fase. L'ha sottolineato anche più volte il ministro Speranza anche oggi, no Emilia? Beh sì, l'aumento dei contagi è innegabile, era aspettato, no, che con l'arrivo della stagione fredda sarebbe accaduto, però insomma chiaramente un po' di cautela serva. Quello che è chiaro è che il paese non può permettersi un nuovo lockdown per ragioni economiche, prima di tutto perché siamo già così a meno 10% del PIL. Insomma. Infatti il ministro Speranza ha detto lavoriamo notte e giorno per evitare un nuovo lockdown, che è un po' lo spauracchio per tutti. No, ma non è sopportabile anche a livello psicologico di tenuta sociale, certo, della popolazione, perché per questo infatti ecco questa norma delle mascherine è opinabile per alcuni, però forse è resa necessario perché non si può dire le mascherine solo agli under 20, piuttosto che per forza di cose deve essere una regola generica. È probabilmente utile perché abbiamo visto qui nel Lazio, dove la norma è già in vigore da qualche giorno con l'ordinanza regionale, la mattina quando si esce per andare al lavoro a scuola ci sono questi gruppi di adolescenti tutti con la mascherina, all'improvviso non l'avevano, quindi questo fa anche capire che è importante, perché sono proprio i giovani, gli adolescenti, no? Quelli che più tendenti all'assembramento, quindi se ha questo effetto è già positivo, chiaro che è un sacrificio per tutti gli altri, però ecco, lockdown più generalizzati è impossibile immaginarli, questo lo sa anche il governo Conte, infatti si va probabilmente verso, proprio oggi è stata ripristinata la cabina di regia continua tra governo e regioni, perché si va probabilmente verso delle chiusure localizzate, che è l'unica cosa che il paese si può permettere, quindi a seconda dell'andamento epidemiologico, diciamo così, dei casi ci possono essere chiusure, ma chiusure proprio nel senso appunto sulla vita sociale, sugli orari dei negozi. Però il governo, se non ci sono esplosioni dei contagi nei prossimi giorni, vorrebbe evitare norme nazionali, certo, su questi, e lasciando quindi proprio alle regioni, come ad esempio è già successo in Campania, no? Che De Luca ha deciso la chiusura anticipata di bar e ristoranti. Però infatti farlo a livello nazionale si vuole evitare per tanti motivi, perché le realtà sono diverse. Insomma. Emilia, infatti tu ricordavi che c'è stato, oltre al Consiglio dei Ministri, anche l'incontro del Ministro degli Affari Regionali Boccia, del Ministro della Salute Speranza con i presidenti delle regioni. Sentiamo Conte che cosa ha detto a questo proposito. Abbiamo ritenuto opportuno e anche necessario recuperare quel rapporto tra Stato e regioni che avevamo costruito anche nella fase più dura. D'ora in poi le regioni potranno adottare misure più restrittive rispetto a quelle adottate a livello nazionale, invece saranno limitate nell'adozione di misure di allentamento. Lo potranno fare solo d'intesa col Ministro della Sanità. Ecco, è stato sottolineato questo, come dicevi tu Emilia, che le regioni come in passato avranno, ma soltanto per misure più restrittive, la possibilità, no, di emanare loro delle ordinanze, come in questo momento ha fatto De Luca. In realtà Boccia, il ministro degli affari regionali, ha detto che poi nei giorni prossimi si cercheranno anche di sciogliere i dubbi, i nodi che ancora rimangono, però ha detto che torna questa cabina di regia tra governo e regioni, no, per coordinare appunto poi le misure da approntare e la condivisione con i presidenti delle regioni. A questo proposito sentiamo cosa ha detto alla fine di questo incontro di oggi il presidente della regione Liguria Toti. È un segnale che abbiamo condiviso di attenzione e un avvertimento a tutti i cittadini, a tutti i nostri concittadini, a tutti gli italiani, del fatto che il Covid ovviamente sta tornando a crescere, anche se con molte diversità rispetto alla crisi della primavera scorsa. Però è una misura che richiama tutti a prudenza, attenzione, a comportamenti corretti, quelli che conosciamo come il lavaggio delle mani, la distanza sociale, che abbiamo ritenuto opportuno. Ecco, si è detto appunto d'accordo sulle misure classiche che già conosciamo e anche sul fatto che si rende, purtroppo, perché non piace a nessuno, insomma, necessario l'obbligo della mascherina anche all'aperto, però poi ha detto anche Toti che non è molto d'accordo sul fatto che le regioni possano avere il diritto di emanare soltanto ordinanze restrittive, quindi con le regioni rimane un po' un braccio di ferro, i governatori sono un po' più aperturisti, insomma sono spaventati, e anche nella riunione di oggi hanno sottolineato il fatto che anche all'interno della stessa regione ci sono casi e casi, un conto è il centro della città, un conto magari no, è la campagna, i piccoli paesi dove il distanziamento già c'è, più naturale, quindi anche per le chiusure dei negozi. In realtà il decreto approvato lascia una porta aperta anche alle aperture rispetto alle norme nazionali, perché nella stesura iniziale era previsto che potessero fare ordinanze più aperturiste, chiamiamole così, d'intesa con il ministro Speranza e con il comitato tecnico scientifico, nell'ultima versione solo con il ministro senza il comitato, vale a dire che l'interlocuzione è solo politica, quindi viene lasciata un po' una porta aperta alle regioni che registrano pochissimi casi, ad esempio di poter dire la mascherina solo nel centro città o piuttosto i ristoranti aperti fino a tardi, quindi un po' di porta aperta viene lasciata, ed è anche per questo che i governatori che nei giorni scorsi sono stati più agguerriti, fra cui proprio Toti, no? Contro le restrizioni, oggi erano molto più cauti. Sì, un po' più anche morbido. Nella riunione ha parlato Bonaccini per tutti, gli altri governatori sono stati zitti, hanno, no? Quindi l'atteggiamento il presidente era della regione collaborazione. Emilia Romagna, anche della conferenza delle regioni. Sì, senti, per quello. C'è un ascoltatore tra i vari che dice: ma non basterebbe comprare e fare 60 milioni di tamponi magari con i soldi del MES? Mi sembra una cosa un po' miracolistica, un po' impossibile anche da fare questa, anche perché il tampone... Sì, ma non solo economicamente ma anche logisticamente insomma, è una cosa difficile, magari un po' inutile. Chiaro. Ecco, diciamo. Poi invece Mario da Brescia dice: esco adesso da un bar in Val Camonica, che è appunto vicino Brescia, e dice 15 persone all'interno, nessuno con la mascherina. Allora, poi ne parleremo tra poco col portavoce dell'Associazione Nazionale Funzionari di Polizia sulle regole. È chiaro che se uno in quel momento sta o bevendo o mangiando, certo, questa non può tenere la mascherina. Se però sta chiacchierando, da domani sarà resa obbligatoria, insomma, specie se si è tante persone intorno a un tavolo. Senti, Emilia, Conte ha voluto dire che lui non si sottrae al Parlamento, perché ci sono, come sono state nei mesi scorsi, un po' le polemiche da parte dell'opposizione, che il Parlamento viene coinvolto poco in queste decisioni, che Conte fa le sue conferenze stampa, decide. Sentiamo questo passaggio e poi dici che cosa ne pensi. Non credo possa essere accusato di sottrarmi al se vediamo anche comparativamente l'operato di altri presidenti del Consiglio in passato, vado frequentemente in Parlamento. Che ne pensi, Emilia, di queste critiche, del fatto per esempio ieri è mancato il numero legale, poi oggi invece c'era per far passare questa risoluzione del governo? Il tema di coinvolgere il Parlamento in uno stato d'emergenza che ormai dura da 8 mesi è importante per la democrazia, non c'è alcun dubbio. Il governo ha corretto alcuni atteggiamenti dell'inizio, perché adesso non si fa il DPCM prima ma si va in Parlamento. Le misure dei DPCM vengono recepite nei decreti legge di volta in volta, e come sappiamo il decreto è poi discusso e approvato dalle Camere, mentre il DPCM no. Quindi dei passi avanti sono stati fatti, così come questo dialogo continuo con le regioni, perché è evidente che se non c'è un accordo con le regioni l'emergenza non può essere gestita. Però insomma un po' di rischio c'è, bisogna sempre tenere le orecchie vigilanza, alzate. Certo, però è anche vero, permettimi una battuta, che sì, l'opposizione fa il suo mestiere, insomma. Immaginiamoci la situazione a parti invertite, fosse stato Salvini a Palazzo Chigi e PD e 5 Stelle, insomma, cosa avrebbero detto? La dittatura, il DPCM, il Parlamento esautorato. È anche un po' un gioco delle parti, normale. Certo, legittimo. È legittimo, però è chiaro che l'attenzione deve essere sempre alta, chiunque governi, perché sono restrizioni delle nostre libertà personali, quindi bisogna stare sempre molto, certo, molto cauti. Questo l'opposizione a farlo notare, notare, rilevare. Certo. Però certo, da qui a far mancare il numero legale, impedire l'approvazione, forse è un po' un eccesso. L'ascoltatore di prima dice: mi spieghi perché è inutile comprare 60 milioni di tamponi? Cioè, abbiamo detto, prima di tutto, impossibile da un punto di vista economico, da un punto di vista logistico, e poi una volta che anche fosse possibile, un miracolo pazzesco a 60 milioni, sì, poi non è che è cristallizzata quella situazione, poi devi continuare, certo, a farlo nel corso del tempo. Quindi un conto sono i sintomatici, un conto gli asintomatici. Certo, insomma, la questione è molto molto complessa. Grazie Emilia Patta, grazie, un abbraccio. Grazie a voi, buona serata. Ciao Emilia, buona serata a te. pausa di riflessione per i vostri commenti. C'è una pagina di Facebook Effetto Notte alla quale potete aderire senza indugio in qualsiasi momento, perché stasera sembra bloccata, il mio post è saltato, dove vi mettevo i contenuti e anche la possibilità delle vostre domande. Resta il numero per i WhatsApp, che è 349 238 6666. Torno ratta come la folgore, perché ci sarà il portavoce dell'Associazione Nazionale Funzionari di Polizia al quale possiamo fare diverse domande. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Oh, a questo punto vi leggo un messaggio di un ascoltatore che potrebbe essere l'introduzione al rientro, e dice: non so se lo faccio consapevolmente, ma esco, dice, quasi tutte le sere dal lavoro intorno alle 21 e percorro 40 minuti in compagnia di Effetto Notte. Un vero piacere, dice Giuseppe, il piacere, dico, è reciproco, e consapevolmente o non consapevolmente tutti ascoltiate, non perdiate neanche un minuto di Effetto Notte, in modo che un giorno non potrete dire io questa non la sapevo. A proposito di una notizia importante, Roberta Giordano sempre con voi a raccontarvela insieme agli ospiti che approfondiscono i temi principali. Abbiamo inoltre introdotto una misura più rigorosa: le mascherine d'ora in poi bisogna portarli con sé quando si esce di casa e indossarli, in ogni caso a meno che non ci si trovi in una situazione di continuativo isolamento. Ecco, faccio l'ipotesi, si vive in campagna, isolati, in quel caso si esce all'aperto, è ragionevole indossare la mascherina. Si vive in montagne isolate, in quel caso è ragionevole indossare la mascherina, ma per il resto la mascherina comunque va non solo portata ma anche indossata. È stato chiaro il Presidente del Consiglio Conte, lo dicevamo poco fa, nella pagina politica, da un punto di vista politico appunto il Consiglio dei Ministri ha prorogato sino al 31 gennaio lo stato di emergenza e ha prorogato anche le norme già in vigore anticontagio del decreto del Presidente del Consiglio, che è già in vigore, viene prorogato fino al 15 ottobre, poi di lì si vedrà, ma intanto è stata resa obbligatoria appunto la mascherina anche all'aperto. Ne voglio parlare con il dottor Girolamo Lacquaniti, portavoce dell'Associazione Nazionale Funzionari di Polizia. Bentornato. Nato come un déjà vu, o forse un déjà écouté si direbbe in francese. Dottor Lacquaniti, beh, buonasera. Buonasera, visto che parliamo sempre di divieti e di obblighi, di multe, qualcosa comunque di brutto, beh, purtroppo. No, lei comunque insomma lo fa naturalmente per informare cittadine e cittadini, non abbiatela con il dottor Lacquaniti, che anche ci aiuta anzi a evitare multe che vanno da 400 a 1000 euro, ecco, per chi non porta la mascherina. Però le domande sono già tantissime che stanno arrivando, dottor Lacquaniti, al 349 238 6666. C'è chi dice, per esempio: non mi è chiaro, percorrendo la strada di cui nella quale non incontro nessuno per andare a prendere l'auto, posso evitare di indossare la mascherina? Allora, la risposta precisa credo sia nì, nel senso che la norma prevede, da come l'ho letta e da come la interpreto, il fatto che la mascherina venga indossata sempre quando si sta in un luogo pubblico. Il Presidente del Consiglio ha fatto degli esempi molto chiari: la passeggiata nel bosco, luoghi completamente isolati. Questo da un lato. Dall'altro lato, per quello che mi costa al momento, la nostra linea sarà comunque una linea improntata al buon senso, all'intelligenza. Quando un obbligo è così esteso, non solo per 60 milioni di italiani, ma così esteso nel senso che la dobbiamo portare sempre, è possibile che capiti che la mascherina possa magari scivolare perché si parla, avere un momento di distrazione. Il senso fondamentale qual è? È che nel momento in cui qualcuno, anche non per forza un poliziotto, dovesse far notare di indossare correttamente la mascherina, che deve quindi coprire bocca e naso, ecco, non assistere a quelle scene che ogni tanto capitano di persone che rifiutano questo tipo di obbligo. Non saremo sicuramente, queste sono indicazioni, voglio dire, dice, non come saremo polizia, lì pronti, non sarete a multare chi in un attimo di disattenzione o di svista non avesse la mascherina, o in buona fede convinto di percorrere una strada completamente isolata non l'abbia correttamente indossata. Non deve essere un paese dove vige il principio della tolleranza zero, perché come mi ha insegnato un bravo e vecchio poliziotto, un paese dove c'è tolleranza zero è un paese dove non si vive bene. Chiaro. Comunque ricordiamolo, è d'obbligo da domani, a partire da domani. E c'è un altro ascoltatore che dice, per esempio, gente in piedi, gente seduta da parecchio tempo a parlare vicino in un bar, le mascherine le tolgono quando bevi, ma dice non c'era nessuno che stava bevendo. Altri stanno parlando per esempio della situazione nei bar o ai tavolini, quando dice la tazzina di caffè è ormai vuota. Brevemente la Quanita in questo caso. C'è già il cane che abbaia, non gli piace questo modo di... Un allarme. Sono un regalo anche per noi del Covid, ne abbiamo addirittura due, ma tornando alla risposta, la normativa interviene anche per quello che riguarda gli assembramenti. Non si tratta ovviamente dei momenti in cui i ristoratori, i locali dove si somministrano cibi e bevande, prevedono degli spazi di distanziamento tra i tavolini, e magari si fa la consumazione con persone che appartengono a un nostro nucleo familiare, o comunque nel distanziamento del tavolo da un posto a un altro è considerato sufficiente. Quelli che diventano problematici sono gli assembramenti, cioè quando troviamo giovani e soprattutto anche meno giovani, diciamo, che consumano bevande da sport in piedi, tutti ammassati, magari all'esterno di questi locali. Ecco, questo è una cosa che non si potrà fare. Invece Andrea dice: buonasera, nell'andare al lavoro in bicicletta devo indossare per forza la mascherina? Questo è stato escluso? Chi pratica attività sportiva, vero dottor Laquaniti? Ecco, con buon senso. Assolutamente, anche per chi corre come lei, ci sono delle specie dove l'uso della mascherina non è obbligatorio, credo sia anche difficile da attuare, per cui sono escluse le attività sportive, sono esclusi i luoghi isolati. E per chi va in bicicletta, ecco, non è obbligatorio. Invece, dottor Laquaniti, un altro ascoltatore dice: scusate, ma io faccio delle lunghe passeggiate la sera in città da solo, posso andare senza? Se siamo in una via completamente isolata, adesso non so a che ora tarda, in quale via dovesse essere completamente isolata, io dico, ecco, diciamo una cosa con chiarezza: la mascherina va sempre portata. Se sono in una via, se sono in un luogo completamente isolato, posso non indossarla, posso averla quindi anche abbassata. La cosa importante dovrebbe essere un gesto di galateo più che il timore delle multe: se si incrocia qualcuno la mascherina si calza, ma la mascherina, soprattutto per chi vive in città, anche se la via è isolata, la mascherina va sempre posata con noi. Se non c'è nessuno possiamo anche non indossarla correttamente, possiamo anche non far coprire naso e bocca se non c'è nessuno. L'importante è essere pronti nel momento in cui compare un brutto poliziotto che dice: lei è in una strada, indossi cortesemente la mascherina. Ecco, la mascherina portiamola sempre. Se uno è completamente isolato, indossarla può non essere necessario, questo va da sé. Un altro messaggio dice: le palestre sono aperte, stasera ho visto cose che voi umani, eccetera, eccetera. Per il momento nelle palestre, quando si fa attività sportiva, anche nelle palestre non è prevista la mascherina, anche perché sennò si va in crisi cardiaca. Però mi pare che il dottor Laquaniti abbia spiegato benissimo le regole essenziali previste da questo. Fermo restando una cosa, che tutti coloro i quali svolgono questo tipo di attività hanno degli obblighi per mantenere sanificati gli ambienti e per mantenere il distanziamento tra le persone. Quindi in questo caso sia la vecchia normativa che la nuova prevede anche delle sanzioni, quindi c'è il rischio di chiusura per chi gestendo un'attività non si adoperi per evitare assembramenti e per non seguire le norme di igienizzazione previste. Benissimo, grazie mille dottor Girolamo Laquaniti, speriamo insomma di sentirci presto per dire che le cose si sono allentate, vediamo. Speriamo di sentirci presto per dire che non c'è più il rischio di morte. Buona serata a lei. Magari, buona serata e buon lavoro dottor Laquaniti, grazie, c'è la viabilità. Strade in diretta. Buonasera a tutti voi, qualche disagio in Lombardia sulla 9, la Milano-Como, a causa delle operazioni necessarie a recuperare dei mezzi incidentati, sono segnalate code a tratti tra Saronno e Turata in direzione della Svizzera. Vi segnaliamo che sulla 4 la Torino-Trieste per lavori, lo svincolo di Ospitaletto resterà chiuso fino alle 6 di domani mattina, sia in entrata che in uscita in entrambe le direzioni di marcia. Chiuso in entrata anche lo svincolo di Dalmine in entrambe le direzioni, in uscita nella sola direzione 3. Trieste. Ora ci spostiamo nel nord-est perché a partire dalle 22 di questa sera fino alle 6 di domani mattina per lavori resterà chiuso l'allacciamento tra la A4 nel tratto Padova-Venezia e la A13, la Bologna-Padova, per il traffico che proviene da Venezia e vuole proseguire in direzione Bologna. Da Radio Traffico un saluto da Gianni Di Lascio, grazie per la cortese attenzione. Strada in diretta torna domani mattina. Buon viaggio! Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Proseguiamo con l'approfondire le notizie, Roberta Giordano sempre con voi. Allora, uno degli aspetti critici sicuramente in questa emergenza e anche in questi mesi in cui si riesce a contenere il virus, ma insomma i contagi stanno crescendo, appunto abbiamo appena parlato della proroga dello stato di emergenza del PCM, uno degli aspetti critici è la velocità con cui si riesce a fare anche e poi a ricevere l'esito di un tampone, lo sappiamo, si rischiano a file anche di ore. Allora, i medici di famiglia della regione Lazio hanno annunciato che presto, probabilmente a metà ottobre, potranno già fare direttamente nei loro studi con i pazienti i tamponi rapidi. È un progetto appunto che dovrebbe partire a breve, lo ha annunciato oggi Pierluigi Bartoletti, vicepresidente della Federazione Italiana dei Medici di Medicina Generale, che ho il piacere di avere in collegamento. Buonasera dottor Bartoletti. Buonasera a voi. Quindi è vero, insomma, questa cosa che potrebbe rivoluzionare, perché poi ho visto che anche il ministro Speranza l'ha accolta con entusiasmo, ha parlato di 235 milioni a disposizione, è una cosa quindi fattibile a breve? Sì, diciamo che già in regione hanno accolto la nostra, diciamo così, disponibilità che era già datava da luglio, quindi ci stiamo preparando da luglio perché insomma diciamo che questo è il primo inverno e il primo autunno con questo virus nuovo che circola ed era prevedibile. Anche in stati dell'estate, che sono il virus va a diminuire delle temperature e col cambiare del tempo, visto che ce l'abbiamo dentro casa, cominciasse a ricircolare nelle famiglie, che il quadro adesso è questo. Quindi abbiamo molti cluster familiari e quindi è chiaro che bisogna un po' cambiare strategia. No? Qui nel Lazio fino a poco tempo fa eravamo tarati con un servizio su RSA e comunità anche per anziani, adesso bisogna cambiare e cominciare a rendere capillare la diagnostica rapida che per fortuna abbiamo a disposizione anche questa da poco tempo, da metà agosto circa. Quindi conferma che verso la seconda metà di ottobre voi potrete fare direttamente nei vostri studi nel Lazio questa testa? Al di là del fatto di poterla fare o meno, perché insomma, è chiaro che un medico deve sempre ragionare con competenza e diligenza, quindi la fa chi la vuole fare, chi ha lo studio per poterlo fare la sa fare, no? Non attenerci a questo. Ma in ogni caso, sì. Questa cosa qui sarà fruibile, anche la regione ha confermato l'interesse e sta facendo adesso un bando per raccogliere le disponibilità e comporre un elenco degli studi medici dove sarà possibile effettuare questa indagine rapida. Bene, quindi ho sentito appunto che il ministro Speranza, come dicevo, insomma, vorrebbe estendere a tutta Italia, speriamo, perché sarebbe una vera rivoluzione, velocizzerebbe i tamponi e tutto quanto sarebbe insomma più snello, più agevole e anche i tempi di attesa, no? Per le persone che magari stanno a casa bloccate e non possono. Ma io coordino anche nel Lazio le USCA, ma parla con uno che di questi tamponi ne ha fatti ormai da agosto, non io personalmente, ma i colleghi che stanno con me, circa 50.000. Diciamo che il tampone rapido rispetto al tampone molecolare c'è dei vantaggi e svantaggi come tutte le cose. Il vantaggio è che è immediato, quindi in mezz'ora c'è una risposta. Lo svantaggio è che almeno in teoria, siccome è una tecnologia abbastanza nuova, potrebbe avere, diciamo così, ci sono state all'inizio delle polemiche, potrebbe avere falsi positivi o falsi negativi. Dai alla mano, decine di migliaia che abbiamo fatto, è un test sicuro. Niente è perfetto in medicina, è al 100%. Si può migliorare, però è già un'ottima notizia. Grazie allora dottor Bartoletti, grazie e buon lavoro, grazie, speriamo buona appunto serata. Che sia esteso il prima possibile. The Royal Swedish Academy of Sciences. Parliamo adesso del Nobel per la chimica che ha dato a due donne, due scienziate, Manuelle Charpentier e Jennifer Doudna, che hanno messo a punto la tecnica che taglia e incolla il DNA che permette di riscrivere il codice della vita, in sostanza delle forbici genetiche che consentono di modificare il DNA che finora ha aperto la via a molte terapie un tempo impossibili. Voglio capire la portata di questo premio e di questa scoperta con Anna Cereseto, che è docente di biologia molecolare dell'Università di Trento. Professoressa Cereseto. Intanto finalmente il Nobel sta scoprendo man mano le donne, le scienziate, no? E poi questa cosa effettivamente poter ritagliare il DNA e cambiare delle cose per alcune malattie che prima era impossibile curare non è poca cosa. Buonasera a tutti, sì, è una grandissima scoperta e sicuramente un Nobel che stavamo aspettando tutti quanti perché è assolutamente meritato. È una scoperta CRISPR, questa molecola che possiamo chiamare così in maniera comune una forbice molecolare che permette di andare a modificare il DNA in maniera molto precisa. Ed è una, diciamo, una tecnologia che stavamo aspettando di avere da quando abbiamo scoperto l'esistenza del DNA. Quindi una grande scoperta che ha rivoluzionato letteralmente il campo delle scienze della vita, quindi ovunque ci sia la necessità di modificare il DNA, ma soprattutto per le sue applicazioni in campi terapeutici. Ci sono molte malattie che adesso sono in via sperimentale per la cura utilizzando questa molecola. Sto parlando di malattie che vanno dai tumori a malattie genetiche, anche a malattie infettive. E quindi una scoperta veramente importante e un Nobel molto meritato da queste due ricercatrici. E quindi stiamo veramente tutti festeggiando questo premio. Premio meritatissimo, sono state addirittura definite rivoluzionarie appunto perché hanno permesso di riscrivere il DNA, persino appunto dicevano solo per gravi patologie dai tumori, la talassemia, la fibrosi cistica, ma anche per esempio per quanto riguarda la lotta alle zanzare, quindi applicabile in tantissimi campi e sempre in vista anche della natura, del benessere, della salute degli esseri umani. Grazie mille professoressa Anna Cereseto, è stata chiarissima e sintetica. Grazie professoressa. Grazie a tutti, buonasera. Grazie, buona serata. E torno velocissimamente a aggiornare alle 22. Martina e oltre mezzo milione di aziende e professionisti usano la fatturazione elettronica di Aruba perché è semplice, è completa e conveniente da una nuova intuitiva app. Fatturazione elettronica di Aruba. Chi l'ha scelta non la lascia più. Vai su aruba.it.